Trainer. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Due giorni per discutere del ruolo della mobilità, della logistica e dei trasporti nel quadro economico italiano ed europeo. Si apre lunedì prossimo, all'insegna di questi temi, la seconda edizione del Forum internazionale Conftrasporto a Cernobbio. L'evento, organizzato da Confcommercio, torna ancora una volta nel suggestivo scenario del Lago di Como per fare il punto sui problemi e sulle prospettive del settore, con una particolare attenzione ai modelli e alle eccellenze alle quali fare riferimento e al contributo che può giungere da realtà locali e istituzioni. L'appuntamento giunge proprio mentre la Camera ha ratificato l'accordo sul clima di COP21 e il Governo sta discutendo le misure previste nella legge di stabilità anche per il settore dei trasporti, provvedimenti che influenzeranno le politiche di questo importante segmento del sistema paese, chiamato sempre più a confrontarsi con un contesto che cambia e a coniugare efficienza, economia e sostenibilità. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale dedicato al mondo dei trasporti e della logistica di Radio 24. E come avete ascoltato dalla scheda iniziale, la prossima settimana, lunedì e martedì, ci sarà la Cernobbio dei trasporti, organizzata da Confcommercio e da Conftrasporto, per fare un po' il punto della situazione sul mondo dei trasporti, non solo quelli su gomma, ma anche la ferrovia, il mare, insomma l'intermodalità in generale. Per cercare di capire quali saranno le tematiche affrontate, il nostro ospite oggi Paolo Gè, presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio. Allora, due giorni a Cernobbio, che di solito è la patria del dibattito economico italiano, in cui però questo dibattito economico viene declinato sul mondo dei trasporti. Qual è la situazione di questo segmento in Italia in generale? Beh, noi partiamo proprio da una situazione di economia generale, quello che succede nel mondo, quello che succede in Europa, e avremo relatori di grande prestigio per affrontare un tema così vasto e così importante. Ma poi declineremo quello che il governo ha voluto indicare in un suo documento, l'Italia disconnessa, che, se vogliamo ricordare, è un po' il titolo della manifestazione che abbiamo messo in piedi l'anno scorso. Cioè, noi allora segnalavamo quali che erano le disconnessioni del paese. Stavolta entriamo più nel merito e, per esempio, diamo alcune dimostrazioni di come nella fase di crescita il nostro paese cresce meno degli altri, e questo per effetto di che cosa? Per effetto del fatto che il nostro paese non è connesso adeguatamente, ma questo è una parola comune che si usa spesso, certo, nel mondo dei trasporti, e andiamo ad individuare qual è l'elemento che crea questa disconnessione. Quindi è un solo elemento, Gè, non ce n'è più di uno? Beh, no, ce n'è sicuramente più di uno, ma come dire, quello che più salta agli occhi è la parte centrale del paese, che non consente alle grandi infrastrutture ferroviarie di consentire che le merci che nel mezzogiorno arrivano possono arrivare al nord del paese ed entrare sul mercato europeo. Ma c'è un altro dato che emerge, che il sud ha una linea ferroviaria molto più vasta, molto più sviluppata, diciamo, anche se non adeguata, rispetto a quella che esiste al nord. Ebbene, il nord, la gran parte del traffico ferroviario si sviluppa al di sopra di Bologna. Al di sotto di Bologna noi abbiamo un crollo verticale di quello che è l'utilizzo del sistema ferroviario. Questo vuol dire che non siamo organizzati, e questo vuol dire, ed è una delle richieste che il presidente Sangalli farà, è quello di costituire una cabina di regia dove interporti, porti, quindi la logistica portuale, gli interporti e la logistica nel suo insieme, affrontino i temi con una logica di sistema. Uge, quali saranno le tematiche specifiche invece che riguarderanno il mondo dell'autotrasporto anche in vista del prossimo incontro con il governo per fare un po' il punto su questo settore? Beh, innanzitutto noi abbiamo la necessità di affrontare il tema del dumping sociale, che ormai è diventato insostenibile. Cioè, noi non possiamo competere con paesi che hanno un costo per autista di 200 euro al mese. E quindi abbiamo apprezzato l'intervento del ministro Delrio, che ha sottoscritto una lettera insieme ad altri 7 ministri dei trasporti, mandato alla commissaria Bulc, e ieri ha evidenziato chiaramente questo aspetto che deve essere affrontato e risolto secondo una logica che metta tutti sullo stesso piano. Ma nei confronti del governo italiano, beh, noi stiamo ancora aspettando che venga emanato quel decreto ministeriale, e qui la responsabilità è del Ministero del Lavoro o dei burocrati del Ministero del Lavoro, che hanno impedito l'emanazione del decreto che produrrebbe degli interventi più incisivi per quanto riguarda le operazioni di cabotaggio, cioè di coloro che vengono in Italia a fare i trasporti e non rispettano le regole previste. Ovviamente dobbiamo anche affrontare il tema con il governo della decontribuzione, 65 milioni previsti nella legge di stabilità che non sono utilizzati, neppure dando seguito a norme che sono già state emanate con legge. Faccio l'esempio dei lavoratori dell'Alitalia, hanno avuto la decontribuzione e noi vogliamo appellarci a questo esempio per dire si faccia anche per gli autisti che effettuano un certo numero di giorni all'estero, si applichi il principio della decontribuzione. Sono interventi che aiutano evidentemente l'attività delle imprese italiane ad certo. essere competitive. C'è un altro tema che riguarda il settore dell'autotrasporto e che sembra si sia incanalato verso una risoluzione, secondo quanto annunciato dallo stesso ministro Poletti in una trasmissione televisiva solo qualche giorno fa, e cioè anche gli autisti di mezzi pesanti potrebbero beneficiare dell'uscita preventiva dal lavoro, la cosiddetta APE, senza avere delle penali. Ma qui bisogna mettersi d'accordo bene su questa misura. È chiaro che noi siamo d'accordo sul fatto che l'attività di autista sia un'attività da considerare inserita nei lavori usuranti. C'è un problema. La domanda è chi paga, chi sostiene il costo di questa iniziativa, perché se i singoli lavoratori debbono sostenere il costo di questa operazione o se le imprese debbono contribuire oltremodo per questo riconoscimento, beh, allora bisogna che facciamo delle valutazioni molto attente, perché una piccola impresa, penso un'impresa artigiana con due o tre autisti, si troverebbe a sostenere un aumento contributivo significativo, e questo non è mica detto che l'impresa sia in grado di sopportarlo. Quindi vogliamo capire bene, e sarebbe una cosa buona se i burocrati del Ministero del Lavoro, anziché disertare le riunioni che il Ministro dei Trasporti convoca attraverso la sottosegretaria Vicari, partecipassero per renderci edotti di quelle che sono le misure che si stanno emanando. Chiudiamo con un messaggio positivo. A Cernobbio la prossima settimana non si parla solo di criticità, ma si parlerà anche di eccellenze del trasporto italiano ed internazionale. Beh, certamente noi abbiamo delle esperienze e delle iniziative attuate da parte delle imprese che sono noi associate, che vengono proprio definite giustamente delle eccellenze, imprese che hanno saputo creare una logistica efficace ed efficiente, che hanno saputo svilupparsi, che hanno saputo inserirsi, e quindi presenteremo anche queste esperienze positive. Cito per esempio le iniziative portate avanti dalla Federazione Fercargo per quanto riguarda il trasporto ferroviario, da Federlinea per quanto riguarda il trasporto navale, ed anche da imprese di logistica che hanno effettuato delle iniziative, direi, che dimostrano come la volontà degli imprenditori sia quella di rispondere ai bisogni del sistema produttivo. Per far questo però abbiamo bisogno anche di un sistema paese che, anziché bloccare, rendere difficili le operazioni, anziché avere le motorizzazioni che ci mettono mesi e mesi per fare le immatricolazioni, tutto questo sia ricondotto ad una logica funzionale. Certo. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Ringraziamo e salutiamo Paolo Gè, presidente di Conftrasporto, vicepresidente di Confcommercio. Ricordiamo l'appuntamento con Cernobbio lunedì e martedì per parlare di trasporti. L'appuntamento invece con Container ritorna sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.